oggi ho fretta di vivere, di provare, di esistere. Ho un cervello magnifico, senza peso specifico. Me l'ha detto anche il medico, sono troppo frenetico. Digerisco metodico, mentre aspetto al semaforo. Canto una pubblicità. Oggi un giorno perfetto, ho aggiornato il profilo mentendo, ma ora faccio più effetto. Centinaia di amici mi aspettano per sapere che ho detto. Come passano i giorni qualunque nella stanza da letto. Mi fermo in macchina in una terza corsia. In un campo magnetico, con effetto balsamico. La mia vita è una favola, fatta a forma di me. Vivo dentro una nuvola, stretto alla mia parabola. Sogno solo in HD. Oggi un giorno perfetto, del film di Natale, è già un anno che aspetto. Come passano i giorni qualunque, le parole che ho detto si sono perse in un lungo dibattito sul passare del tempo.